scorre sangue in sti boschi scuri. Sangue bomba, sangue che mi fotte la paura. A stima sangue rock, la maronna e tutti sanda. Sangue, sangue scorre in sti pene briganda. E volia solo un anzi in carterra per zappare. Sangue, sangue, scorre sangue. Sangue, sangue, Melfi, Venosa, Barile, Avigliano, Rio Nero, Ruvo del Monte. Sangue, sangue, terra briganda. Terra senza briganda. Sangue, sangue, scorre. Terra bagnata da un sangue, era lo sudore di briganda. Ma terra era signore. E si fottono nel nare, si fottono nella terra, e si fottono pure un migliere. Terra briganda, terra senza briganda. Sangue, sangue, scorre, sangue, andasti vostro scuro. Sangue.